Oh raga, io non ce la faccio più qua, io pensavo di divertirsi a girare con questa gente. Cioè cazzo, se siamo, siamo pacifisti, non facciamo mai un cazzo. La polizia della mattina sera, io non ci giro più, insomma, un pericolo, cioè, io sono innocente, te l'ho detto che mamma, sono innocente. Mamma, ieri sera mi ha rotto pure le scatole. Ma basta con queste cazzate!